24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Mi vedo già che sarà invitato al Nazareno Geni Lara Carogna con Alfonsi il bastardo e diranno: signor Carogna, venga, possiamo fare una legge insieme per vedere un po' di togliere la violenza negli stadi. Questa è la versione di Beppe Grillo. Adesso da due giorni non si parla d'altro. L'Italia ha trovato questo nuovo simbolo, Geni a Carogna, perché siamo un paese così, un paese di rincoglioniti, e quindi dobbiamo elevare Geni a Carogna a simbolo. Simbolo, sì, certo, simbolo un po' di questa Italia un po' così, nella quale il ministro all'interno Angelino Alfano oggi dice alla stampa: alt, fermi tutti, non abbiamo trattato con nessuno, lo Stato non ha trattato con i tifosi e con Geni a Carogna, sia chiaro, non abbiamo ceduto. Magari, dico io, si sono fatti da parte, lo Stato si è fatto da parte una serata, sì, non è che proprio ha ceduto, si sono messi un po' lì nel cantuccio per una serata. Comunque, cari italiani, all'alba della 53esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ma questa volta io sono certo che sarà quella decisiva, apriamo 24 mattino con Miriam Luchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè, che conta i giorni che lo separano dalla dunata degli alpini a Pordenone, è lì in regia. È la 53esima settimana decisiva anche per l'abolizione delle province, ma certo, parbleu. E allora apriamo il Parlamento, dai, che è la settimana decisiva per tutte queste cose. Succederà qualcosa entro venerdì. Succederà qualcosa, dai, che succederà. Forza, forza, gente, accorrete al il titolo più bello degli ultimi 5 anni, ieri era del Fatto Quotidiano: Geni a Carogna, ministro degli interni. Cioè, è stato il ministro degli interni sabato sera, Geni a Carogna, con la maglietta speciale Libero, speciale quello accusato di aver ucciso un agente di polizia, Raciti, a Catania, ve lo ricordate? Allora voglio salutare Federico Novella, come stai? Buongiorno, campione, buongiorno. D'Italia, campione d'Italia, campione io, d'Italia. Io vorrei lanciare subito un messaggio di pacificazione, forza, sì. Juve, forza Juve. Hai veramente intesito qua la situazione, c'è cioè il alpino Peter Bescapè si stava alzando e se ne stava andando dalla regia, il che non avrebbe portato. Ma no, voleva essere un messaggio d'armonia. Va bene, io dico forza Benfica. Oh, così stendiamo. 1-1 palla al centro. Allora, Federico Novella è pronto per mattino 5. Tra poco ci dice che di che parlerete. Voglio salutare però anche Alessandro Giglioli, piovono rane, l'Espresso. Eccoci qua, Alessandro. Buongiorno. Come va? Come è andato? A Roma tu hai visto qualcosa sabato? Hai saputo? Eri in zona, no? Non eri. Guarda, io come Forrest Gump mi trovo sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ero in un ufficio di polizia a fare un passaporto quando in polizia alla radio ho cominciato a parlare di questo casino. E che dicevano? Che dicevano? Poveracci, devo dire che cercavano di capire cos'era successo per cercare di evitare altri danni. Mi sembravano tutti molto... Sì. Metà della gente si è andata via e... Comunque, è questo. È questo qui. Che ne pensate voi? Federico, tu che ne pensi di Geni a Carogna? E che ne pensi di quello che è successo? Chi è il nuovo interlocutore sulle riforme? Appunto, come ha detto Beppe Grillo, non lo so. Noi siamo sempre in cena ai giornalisti, poi lo sai bene, siamo sempre in cerca di personaggi. Sì, e sì. Quindi magari cerchiamo anche di ingigantire, no, quello che è successo. Però quello che mi pare di capire è che, nonostante tutto, adesso non so se lo Stato si sia arreso addirittura ai tifosi, però lo Stato e i tifosi, e ci metto anche le società di calcio, fanno finta di non conoscersi quando succedono queste cose, invece si frequentano, secondo me, vivono in simbiosi. Sembra normale che il capitano del Napoli debba andare a tranquillizzare quel soggetto lì che, appunto, che si presenta come interlocutore della curva e garantisce a nome della curva, cioè, non lo so, sarebbe possibile in una partita dell'NFL dei Buffalo, non lo so, guardo Peter Bescapè che ama il football americano, sarebbe possibile una partita dell'NBA, cioè all'NBA Los Angeles Clippers il proprietario che ha detto una cosa razzista è stato cacciato a vita, è stato obbligato a vendere la squadra, quindi insomma non sarebbe possibile. E ti dico anche che molta gente che magari non vive di calcio pretende che le partite non si giochino e pretende anche che le autorità della tribuna VIP se ne vadano. Questo vabbè, fa parte secondo me un pochino del modo italiano, non so, tu Alessandro Giglioli, tu che non frequenti, ami il calcio un po' così all'acqua di rosa, sei pure interista, lasciamo stare. Che no, qui a me vengono in mente un paio di cose, sì. La prima, posso dirla così tanto per buttarla subito in scarto in polemica, quello che ha detto che lo Stato non si è arreso, vabbè, è lo stesso che ha detto che Rubi era il nipote di Mubarak, che non ha rapito la nipote della Shalabayeva, cioè è talmente screditato il nostro ministro degli interni che qualsiasi cosa dica viene in mente che sia vero l'opposto. La seconda cosa che mi viene in mente è, visto che parliamo anche di una radio economica che spesso parla di economia, insomma, diciamo, o comunque collegato a un giornale economico, è che questa vicenda qua è finita su tutti i giornali del mondo. Io ieri ho visto un po' di giornali stranieri e quella la bella faccia e come no, i bei bicipiti di Jenny e Carogna sono su un po' tutti i giornali del mondo. Uno che aveva due DASPO già in passato, due DASPO in passato. Con gli investimenti stranieri all'estero, noi abbiamo dato un'altra, cioè gli investimenti esteri in Italia, abbiamo dato un'altra volta l'immagine di un paese che è in mano alla malavita, in cui altro che voglia di investire viene a vedere Jenny a Carogna, viene voglia di starci ben lontani perché è un paese di mano alla mala. No, vogliamo dirlo cos'è il DASPO, è il divieto di partecipare, ne ha avuti già due in passato, ma sono scaduti, uno di 5 anni, poi gliel'hanno scontato, è 5 anni ma a 4 anni ha goduto di una, non lo so, cioè c'è anche lo sconto sociali, c'è scritto, non lo so, c'è lo sconto di pena al DASPO, ma vi rendete conto? E Alfano che dice in un'intervista: ora pensiamo al DASPO a vita, cioè uno sbaglia a vita, e ecco, dice una cosa, ma anche fa... a lui un bel DASPO a vita dalla politica, beh, glielo darei. Questa è l'opinione, io sono il par condicio. Comunque ha detto il DASPO a vita, ma ha aggiunto nell'intervista alla Stampa: mi rendo conto che è una cosa troppo dura, che è una cosa molto dura, ma perché c'è sempre questo buonismo in Italia, molto dura? Ma tu non gli daresti, Federico, un DASPO a vita a uno che... ricordiamoci, cioè, ci sarebbe anche la galera ogni tanto, non dico il genio a Carogna, ma in generale, cioè, l'impressione che se io do un pugno a qualcuno per strada mi arrestano, se lo faccio allo stadio è un peccato di gioventù, se sono ragazzi, sai, si divertono. E io non so se è soltanto un'omissione di Alfano, non mi sembra che con le vecchie amministrazioni, non voglio fare un discorso trito e ritrito, però credo che, ripeto, le logiche commerciali siano comunque importanti in questo discorso qua, cioè i tifosi, gli ultra e la società vivono in simbiosi, secondo me. Ripeto, quando succedono queste cose fanno finta di non conoscere. No, ma dopo leggerò l'articolo di Ferenza Sarzanini sul Corriere che ricostruisce proprio riunioni in cui partecipano il questore, il presidente del Napoli, De Laurentiis, l'inviato del presidente della Fiorentina, devono verificare se gli incidenti sono stati tra Napoli e Fiorentina oppure no, perché questo cambia la tensione all'interno dell'Olimpico. Poi vanno a comunicare, cioè è una roba assurda. D'altronde mi fanno anche notare, e c'è qualcuno in America che fischia il proprio inno nazionale, una cosa che, cioè, ma qua non si tratta di essere né patriottici o no, ma l'inno nazionale, tu te li vedi i Giglioli che cantano l'inno, non so, in America, e la gente fischia perché, boh, non so, fischiano l'inno in America, sarebbero guardati un po' per quello, sarebbero, dici Federico? In America il DASPO per quello si prende, il DASPO per aver fischiato l'inno in America. Adesso questo, adesso poi magari lì si esagera. Giglioli, a te dà fastidio che abbiano fischiato l'inno? Te ne frega niente? Ma diciamo che in questo contesto mi sembrerebbe la cosa meno grave. Sicuramente il problema che in Italia, che non credo ci sia nessun altro paese del mondo, è che le tifoserie sono collegate alla malavita. Cioè non mi risulta che nemmeno gli hooligans inglesi nei loro periodi peggiori fossero collegati alla criminalità organizzata o semi-organizzata. Questo è un bigiotto che abbiamo soltanto noi in Italia, forse. Questa è la cosa più grave. Sì, effettivamente sì. Comunque vogliamo sentire anche la madre di Ciro Esposito. Chi è Ciro Esposito? Questo giocatore, questo tifoso del Napoli che è rimasto gravemente ferito e rischia di rimanere paralizzato. Ah, non lo so, se c'è una coscienza, io non lo posso dire perché non l'ho visto, quindi non lo so. Certamente sarà la sua coscienza a dettare quello che ha fatto, non le mie parole, perché non l'ho visto nulla, quindi non lo so. Perché mio figlio è un grande tifoso del Napoli, si è fatto tanti viaggi in trasferta, non si è mai trovato in risse, non ha mai portato un'arma. Certo, fanno i cori, fanno le cose dei tifosi, ma non, certamente non usciva per uccidere le persone. Vabbè, questo tra l'altro aggiunto poi oggi tutti i giornali riporta questa frase: sono pronto a perdonarlo, colui che ha sparato sono pronto a perdonarlo. Vabbè, ma questo, come al solito, il perdono, no Federico, rientra nelle scelte personali, non è che possiamo. Sì, quelle sono scelte intime, però io mi chiedo anche come funziona in Europa, cioè noi siamo sempre costretti a informarci alle regole europee, no? Soprattutto su cose che in Inghilterra sai come ha fatto? Ti beccavano processi per direttissima nello stadio. Allora, ecco. Cari amici tecnocrati e parlamentari europei che adesso rinnoveremo, cerchiamo di armonizzare le nostre regole a quelle europee, no? Mi chiedo, no? Così, voglio dire, non è che ci dobbiamo tenere per noi solo le regole peggiori, cioè l'assenza di regole in questo caso. No, ma è chiaro. Comunque la sensazione è effettivamente che se tu fai qualsiasi cosa fuori dallo stadio, lo stadio diventa, no, questa terra di nessuno, sì, in cui poi più o meno i violenti controllano la situazione. Comunque, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo con la nostra segreteria telefonica e Alessandro Giglioli, Federico Novella. Ah, Giglioli, poi ti devo. Hai presente chi è Paola Bacchiddu? Molto ben presente, Paola, è anche una mia amica. Ah, ecco! A tra poco dobbiamo svelare che ha combinato la responsabile comunicazione della lista per Tsipras. 24 mattino. Milan, ho visto su Twitter la strana somiglianza tra il figlio di Belen e la tua. Vorrei sapere un po' meglio come stanno le cose, grazie. Renzi, o si fa così o me ne vado. Mi ricorda tanto quegli scout un po' cicciottelli e panzerottini che minacciano sempre di portarsi via il pallone. Ma che palle, ma se ne esce. Come facciamo ad avere speranze che in Europa si faccia qualcosa quando abbiamo come europarlamentari persone del tipo Iva Zanicchi e Gardini? Una cantava, anzi lo dico in romagnolo, la canteva o la feva finta di cantè, e quell'altra faceva la chantosa. Che competenze possono avere, a parte il fatto che non ci vanno mai? Ma Cesano Boscone, accuditeci a lui e a quelli che gli danno il voto, no? Milan, Miguel con quel che continua a dire quando è brava e quando è bella la saluzzi. E Saventucci quando è bella e quando è brava la saluzzi. E basta. Ciao Milan. Vabbè, oggi è così, ma quello che mi chiede, Federico, quello che mi chiede. Sì. E mi chiede che il figlio di Belen assomiglia a me. Ora, io, caro ascoltatore, vorrei davvero poter dire qualche parola a riguardo di come dire. Federico, aiutami te. Vorrei avere una voce in capitolo davvero. Ecco, ma dove la vede questa somiglianza? Ma non lo so, però io mi sono già fatto una decina di film, ecco. Purtroppo mi tocca smentirla, caro ascoltatore. Vorrei in qualche modo anche poterla assecondare, ma invece no. Ma io vorrei avere la smentita anche di Belen ufficiale. Sì, esatto. Esatto. È la fonte primaria. Finché non c'è la smentita di Belen, manteniamo questo dubbio. Questo dubbio. Allora, cosa ha combinato Paola Bacchini? Tu la conosci, Federico, invece, Paola Bacchini? Non la conosco personalmente, ma ho imparato a conoscerla. Allora, è un'amica di Alessandro Giglioli. È la responsabile comunicazione della lista per Tsipras. Sì. Caro Alessandro, si è fatta ieri una foto, due o tre foto in cui si riprende su un motoscafo, è sarda, quindi si vede il mare in sottofondo, ma ci sei concentrati soprattutto sul suo bel corpo, ecco, questo possiamo dirlo? Sì. Sì, ha fatto apposta. Se vuoi ti racconto tutto. Adesso me lo racconti. E ha twittato questo. Cari amici, ogni mezzo è buono per votare lista Tsipras. E si mostra lei con un lato B, tra l'altro, in evidenza, no? E come mai, caro Alessandro? Raccontaci. Allora, ripeto, io parlo, la sento tutti i giorni da tempo, siamo amici. Paola è responsabile da gennaio, da febbraio, della comunicazione della lista Tsipras, l'altra Europa con Tsipras, e si sbatte come una pazza tutti i giorni per riuscire a far parlare in qualche modo di questa lista. Adesso non fatemi fare propaganda elettorale, però sbatte il suo cranio tutti i giorni per riuscire a far sì che esca un pezzettino di qualsiasi tipo. E non ce la fa, nel senso che si fa fatica. E non solo non ce la fa, ma vorrei dire, questa lista è data oggi mediamente dai sondaggi come la quarta forza in Italia dopo i tre grandi partiti. E lei non riesce a far uscire una dichiarazione di un suo candidato. È lì che sbatte il cranio con l'Agicom, ricorsi all'Agicom, e telefonate ai direttori dei giornali, compreso il tuo, credo, e probabilmente anche il mio. Tentativi in ogni modo di riuscire a far uscire questa lista in un silenzio mediatico. Perfetto. A un certo punto l'altro giorno mi dice, basta, io non ce la faccio più. Se il meccanismo dell'informazione in Italia è così censorio, è così conformista, cioè io faccio vedere il culo e vediamo se parlano di questa. Ha fatto vedere il culo. Ci è riuscito, caro Milan. Tutti siamo qui a parlarne, certo. Però, Alessandro, però c'è la questione, è il corpo delle donne, e avete da sinistra rimenato e rimestato per anni e anni, e Berlusconi e l'utilizzo delle donne, e adesso deve far vedere il culo per parlare della lista per Tsipras. Esattamente, perché il meccanismo dell'informazione, non solo per vent'anni di Berlusconi, Berlusconi non ha fatto altro, come dire, che ciurlare del manico di una subcultura strana, macista, italica, per cui si parla, per cui sui media finiscono soltanto i culi. Allora lei ha messo una foto delle vacanze, non è che ha messo una foto porno, sia ben chiaro. No, si è messa in costume. Una vecchia foto delle foto scorse, di due stati fa, insomma, una foto in costume delle vacanze, e ha detto, vediamo se adesso parlano della lista Tsipras. Giglioli, non è che parla della lista per Tsipras, parlano del culo della Bacchiddu, parliamoci chiaro. È vero, però in quel caso ha fatto vedere come funziona il meccanismo dell'informazione. Sì, ma no, ma è chiaro, è chiaro, è chiaro. Federico, tu la inviterai? Io Tsipras la invitavo, l'ho sempre invitato a prescindere dalla foto, ma credo che la ragazza, la Paola, nella sua lungimiranza abbia anche calcolato la polemica politica che ne sarebbe seguita. Certo. Gli alfieri del suorismo, no, si sarebbero comunque agitati. C'è un'altra componente. Sì. No, perché tra l'altro, scusa Alessandro, proprio nella lista per Tsipras c'è Barbara Spinelli, la Zanardo, ma ho capito, ma quelle persone che ne hanno fatto proprio delle battaglie culturali, se non lo racconto. Un attimo il cannocchiale, lei non è che abbia venduto il suo corpo, lei ha proprio squarciato il velo sui meccanismi dell'informazione, essendo ragazza donna molto intelligente, l'ha fatto apposta provocando. Ma certo, abbiamo capito che ha fatto apposta. La discussione di cui stiamo facendo, e non soltanto c'è una seconda componente che volevo dire, che è anche quello di un tipo di comunicazione, cioè questa lista, lei ha tentato fin dall'inizio di dare a questa lista una visione un po' fuori da quella della vecchia sinistra radicale, anche un po' bacchettona, anche un po' seriosa, eccetera. Cercato di dare una componente molto ironica, paradossale. Ha fatto dei video che sono usciti, in cui c'era un gruppo di ragazzi che litigava sulla sinistra per prendere in giro le divisioni della sinistra. Sì, sì. Cioè, ha sempre cercato di dare una posizione ironica. Comunque, certamente il quarto d'ora di celebrità. Cioè, io devo dire due cose che devo chiudere: che avrò Ignazio Marino, è il sindaco più amato da Alessandro Giglioli alle 8.45. Parleremo anche, Alessandro, anche di tu, Federico. Dimmi. Speriamo che non venga emulata troppo. Non vorrei vedere Quagliariello sul suo barcone in costume, non sarebbe un piacere. Infatti, forse no. Federico, di che parli velocemente tu? Parliamo dell'Olimpico. Parliamo dell'Olimpico, certo, con politici, certo, e giornalisti sportivi, certo, alle 9 su Canale 5. Va bene. Grazie a tutti. È tempo di giornale radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci, sono le 7:17 minuti, cari italiani, è iniziata ormai ufficialmente la 53esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 53esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E voi lì ancora a fare le vostre colazioni lungherrime, come dico io, debosciati, che non siete altro, vabbè, ma io, questa mi è venuta poco severa. Debosciati, forza, andare a produrre. E allora vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8.45 il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Parleremo anche ovviamente di quello che è successo allo Stadio Olimpico due giorni fa con la finale di Coppa Italia, ma con una premessa, quella degli spari. E questo è il tema, tra l'altro, affrontato da tutti i giornali in apertura e con cui inizieremo la rassegna stampa: gli spari di un tifoso della Roma, con il ferimento grave di un tifoso del Napoli, e poi soprattutto anche quello che è successo allo stadio, la cosiddetta trattativa smentita dallo Stato tra la polizia, tra le forze dell'ordine e i capi della curva di Napoli Fiorentina. Parleremo anche di europee. Quanto guadagna un europarlamentare? Ve lo siete mai chiesti, visto che tra poco si vota per l'Europarlamento? Ve lo spiegheremo e ve lo racconteremo in maniera dettagliata alle 8.15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 5 maggio il Sole 24 Ore apre con questa notizia: imprese, il fisco non arretra, pesa ancora l'aumento degli acconti. Cosa pesano e quanto pesano le tasse per le imprese in Italia? Ma poi la vicenda appunto dell'Olimpico, le tre condizioni degli ultra, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, che fa capire quanto ci sia stata invece una trattativa quella sera. La Repubblica, ecco il piano anti-ultra, violenti fuori a vita, una legge in 15 giorni. La Stampa invece ha un colloquio con il premier Renzi, stadi, basta impunità, questo è il titolo di prima pagina. Per il Messaggero, follia ultra, stretta del Viminale. Il Giornale invece, ostaggio del branco, è la resa dello Stato. Il Fatto Quotidiano, Renzi e Grasso umiliati mentre il mondo ride di noi. Questo è il titolo di prima pagina. Renzi e Grasso erano in tribuna e, dice il Fatto, sono stati umiliati da questa immagine di Jenny a Carogna, diventato ormai il simbolo di una parte d'Italia. L'Unità, la parte peggiore ovviamente. L'Unità, lo Stato piegato all'Olimpico, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Secolo XIX, ultra e digos, la trattativa della vergogna. Il titolo invece del Giorno, con la foto di Jenny a Carogna, e lo chiamano calcio. Ecco, io voglio proprio iniziare da qui. Beh, ormai è assurdo, a uno dei simboli dell'Italia, questo Gennaro De Tommaso, detto Jenny a Carogna, no? Che avete visto con la maglia speciale Libero, speciale colui che è stato condannato per l'uccisione di Filippo Raciti, agente di polizia ucciso a Catania durante la partita di calcio. Ebbene, Genia Carogna parla, viene intervistato dal Messaggero, il Messaggero con Daniela De Crescenzo lo trova, pagina 5, dice non è neanche difficile scovarlo, qui lo conoscono tutti, tra Forcella e Piazza San Gaetano a Napoli, jeans, giubbino, mani in tasca, viso affranto, si presenta così alla cronista, dice non è vero che c'è stata una trattativa tra noi e lo Stato. Non c'è stata alcuna trattativa con la Digos sull'opportunità di giocare o meno la partita, sono tutte invenzioni dei giornalisti, ovviamente alcuna trattativa, quello che è successo sabato è inaudito, c'è un qualcuno, non era mai accaduto che qualcuno sparasse ai tifosi, di questo sembra non importare niente a nessuno, ma a noi sì, a noi interessa, è per questo che abbiamo deciso di rinunciare alla coreografia che avevamo organizzato. E però la domanda di quella maglietta speciale libero dice l'unica cosa importante di questa storia è diventata ormai la maglietta che io e gli altri tifosi indossiamo. C'è scritto speciale libero, è vero, ma attenti, la maglietta è in onore di una città dove abbiamo tanti amici e nei confronti di un ragazzo che sta chiedendo ai suoi legali la revisione del processo. Una richiesta di giustizia non è un'offesa contro una persona deceduta o contro i suoi familiari. Ma alla domanda, scusi, ma le tifoserie non ricattano, non minacciano, non tengono in pugno le società? Tutte favole, risponde Genia Carogna, e sembra questa una favola la risposta. Sta di fatto che Genia Carogna dice nessuna trattativa, che è anche ciò che il ministro dell'interno Angelino Alfano dice in un'intervista alla Stampa, pagina 5, intervistato da Francesco Grignetti, il titolo è «Adesso i tifosi violenti fuori dagli stadi a vita». Parla di un DASPO a vita, cioè la possibilità di, per chi fa e compie queste azioni, di essere espulso a vita. Ah, detto per inciso, Genia Carogna in passato ha già subito due DASPO, no? Cioè due restrizioni a manifestazioni sportive, a partecipare a manifestazioni sportive. Due volte è già successo in passato a Genia Carogna. Comunque Alfano dice mi rendo conto che la proposta è molto forte e dura, fa questa premessa perché siamo l'Italia del buonismo, stiamo pur sempre parlando di misure di polizia, renderle eterne è difficile, ma la mia idea è che occorre inasprire le misure contro i violenti, ad esempio raddoppiando il DASPO in caso di recidiva, oggi è 5 anni più 5, si potrebbe fare 5 più 10. Ripeto, stiamo parlando, come nel caso di Genia Carogna, di uno che ha già due DASPO sul groppone in passato, eppure era lì allo stadio e sono scaduti, evidentemente. Va poi allargato, continua Alfano, a chi al di là del fatto sportivo dia problemi di turbativa di ordine pubblico, colpendo ad esempio un ultra già noto per i comportamenti allo stadio e che poi ti vandalizza un'area di servizio, o ancora prevedendo un DASPO preventivo per il branco, non solo per il capo branco. E poi al termine trattativa risponde alt, interrompo subito, non c'è stata alcuna trattativa, non sta né in cielo né in terra, come Stato siamo e saremo in grado di garantire l'ordine pubblico. All'Olimpico è accaduto che i responsabili delle due società calcistiche hanno ritenuto opportuno far dialogare tra loro i capi delle due tifoserie per fare abbassare la tensione. Questo Alfano. Sta di fatto che se uno legge tutti i giornali, le ricostruzioni, la versione sembra un po' diversa. Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere ricostruisce la mediazione, le condizioni, poi il capo ultra ha garantito il controllo della sua curva. Racconta Sarzanini, erano tre le richieste fatte dai capi ultra del Napoli per garantire il controllo della curva e dunque il regolare svolgimento della finale di Coppa Italia. I responsabili della sicurezza hanno accettato che i dirigenti delle società e il capitano Amsic fornissero le rassicurazioni, tenendo però fermo un punto, si gioca in ogni caso, non ci sarà alcuna sospensione della partita. Il momento di massima tensione alle 20:15, quando si rincorrono le notizie su quanto accaduto fuori dall'Olimpico. Gli interrogativi sono tre. Ci sono morti tra i tifosi? Chiedono i tifosi del Napoli. Ci sono stati incidenti tra napoletani e feriti? e i fiorentini? Ci sono stati scontri con la polizia che hanno causato feriti? A portare le istanze dei tifosi del Napoli al comandante provinciale dei carabinieri Salvatore Luongo, che si trova nello stadio, un dirigente della società, stretto collaboratore del presidente De Laurentiis. Viene informato il prefetto Pecoraro, i due dirigenti delle forze dell'ordine si chiudono nell'anticamera da saletta autorità, insieme al presidente De Laurentiis e a un rappresentante della Fiorentina delegato da Andrea Della Valle. I napoletani comunicano subito le proprie decisioni dopo la riunione. Non ci saranno cori, non saranno esposti striscioni, anche se poi la vittoria darà comunque il via ai festeggiamenti. Nessuno tra i tifosi fa minacce esplicite, ma la situazione è tale da rendere comprensibile quale sia il pericolo. E poi il momento più brutto della serata, il filmato trasmesso in TV fa il giro del mondo, che si trasforma nella rappresentazione della vergogna quando Amsic va a informare la propria tifoseria di quanto è accaduto. Si stabilisce che con il giocatore ci saranno alcuni dirigenti e alcuni poliziotti. Dovrebbe essere una garanzia che tutto vada per il meglio, ma diventa l'immagine dello Stato che si piega ai violenti. E questo racconta Fiorenza Sarzanini. Quindi trattativa coi tifosi no, ma insomma le condizioni dei tifosi, le domande, il prefetto che si riunisce col questore, decidono questo è, questo non è. Sta di fatto che il premier Matteo Renzi è stato anche criticato perché sugli spalti è rimasto. Ebbene, Renzi fa un colloquio con la stampa a pagina 3. Il titolo è: finito il campionato, al lavoro per riportare le famiglie alle partite, dice, intervistato da Michele Brambilla, mentre sta andando tra l'altro nelle Marche per l'alluvione. Dice: guardi, il giorno dopo la Coppa Italia sono andato alla partita di mio figlio e ho sentito che in quell'ambiente il calcio appartiene ancora alle famiglie. Ho pensato ai tanti bambini che la sera prima erano all'Olimpico con le maglie viola e azzurre. Ho chiamato la vedova dell'agente Raciti, offesa dalla maglietta indossata dal capo ultra della curva napoletana. Mi sono scusato con lei a nome delle istituzioni, ma ora non voglio strumentalizzare, voglio far passare le elezioni, perché è da sciacalli buttarsi su quel che è successo quando c'è un ragazzo che sta male. Non mi interessa prendere voti in questo modo. Se qualcuno lo vuol fare, lo faccia, ma dopo il campionato, tra luglio e agosto, pensiamo a come restituire il calcio alle famiglie, perché sabato sera allo stadio io ci sono andato da babbo e da babbo sento il dovere di far sì che il calcio possa tornare a essere un gioco e non un'occasione di guerra tra bande. Certo, è necessaria anche la coercizione, dice Renzi, e in un paese civile Jenny a Carogna con quella maglietta lì non sta in curva, sta dentro. Così Matteo Renzi, che prevede di poter fare una stretta, però dice non adesso ma a campionato finito. Vedo Varacitti che tra l'altro parla in una serie di interviste, per esempio al Fatto Quotidiano, intervistata a pagina 2, dice: beh sì, le telefonate tutto, ma in realtà ho subito una grande vergogna, mi ha chiamato il portavoce di Grasso, mi ha chiamato ieri Alfano, mi ha chiamato Renzi. E dice ancora al Fatto Quotidiano: Renzi si è scusato dicendo che non ha visto in tempo reale, ha promesso che si informerà, tutti dispiaciuti, ma a me non basta, voglio sapere se quel soggetto è tornato a casa liberamente. E la risposta è sì. E quali provvedimenti, il soggetto è Jenny a Carogna, e quali provvedimenti adotteranno affinché una simile vergogna non si ripeta? Ovviamente c'è anche l'altra faccia, vale a dire colui che ha sparato. Ha sparato molto probabilmente Daniele De Santis, questo è nella ricostruzione, poi è scivolato nella fuga dopo aver sparato ed è stato raggiunto da tifosi del Napoli che si sono vendicati e lo hanno picchiato, ora ha molte fratture in ospedale. E in tutto questo il prefetto di Roma Pecoraro fa un'intervista, intervistato da Carlo Bonini su Repubblica pagina 3. Il prefetto in trincea, insomma, si è giocata la partita, ma lui dice: basta ricatti, avrei fatto giocare anche con il morto. Questo il prefetto Pecoraro: avrei fatto giocare comunque, anche se fosse arrivata la notizia che il tifoso napoletano non ce l'aveva fatta. E con quale animo mi scusi? Chiede Bonini. Con quello di un prefetto che deve garantire il principio su cui si fonda uno Stato di diritto democratico. allo stadio c'erano 55.000 persone per assistere a una partita e ce n'erano 5.000 che volevano impedirlo. Se avessi ceduto al ricatto della minoranza, non solo sarei venuto meno al principio democratico, ma il problema di ordine pubblico l'avrei creato io. E scusi, Jenny a Carogna, abbiamo interloquito con lui ma non trattato. Quel tipo è stato informato delle condizioni del tifoso colpito alla schiena e della natura occasionale del ferimento. Volevamo solo tranquillizzare la curva. D'altronde non me li scelgo mica io gli interlocutori della curva, né sono certo io che decido che un tipo come De Santis, cioè colui che ha sparato, sia ancora in circolazione. D'altronde, se io vengo chiamata a sbrogliare una rapina con ostaggi, mi scelgo il rapinatore con cui parlare? Cosa vogliamo? Liberare gli ostaggi parlando col rapinatore o farli ammazzare? Riguardo alla vedova dell'ispettore Raciti, dice: non immagina quanto comprenda il dolore e l'amarezza della vedova Raciti, ma insisto, dobbiamo essere onesti nel dirci una volta per tutte la verità. Piaccia o no, le istituzioni hanno operato in stato di necessità. In nome di una ragione di Stato si lavora per la riduzione del danno. Il problema non è del sottoscritto, di funzionari di polizia che per evitare il peggio sono chiamati al lavoro sporco di sedersi davanti a certi soggetti. Il problema è di chi li legittima. E chi li legittima, prefetto? Beh, i tifosi innanzitutto, e anche alcuni presidenti di società calcistiche che finiscono per attribuire un ruolo a questi signori. Il presidente della Lazio, Lotito, da mesi combatte solitario la sua battaglia contro il ricatto ultra. Qualcuno lo ha forse additato come esempio di coraggio? Non mi pare. E beh, io sottoscrivo le parole, quest'ultime soprattutto, del prefetto Pecoraro, si sappia. Facciamo così, andiamo un po' di pubblicità e poi ripartiamo. Ci sono le notizie, ancora magari qualcosa di questa vicenda calcistica che certo monopolizza l'attenzione dei mezzi di informazione, e poi il resto della rassegna stampa. 24 mattino. Eccoci qua alle 7:37 minuti, ancora a leggere qualcosa di quello che è successo all'Olimpico. D'altronde, ripeto, è la notizia, o meglio, fuori dall'Olimpico, la notizia con cui aprono tutti i giornali. E, ovviamente ci sono anche tanti articoli in questo impazzimento mediatico per cui è diventato un simbolo più Gennaro a Carogna, così soprannominato, anche se lui era lì nello stadio. Ma ovviamente colui che ha dato il vita a tutto è colui che ha sparato, vale a dire Daniele De Santis, che è raccontato nel profilo, per esempio, del Fatto Quotidiano, pagina 5, con Tommaso Rodano e Alessio Schiesari, che raccontano come è andata. È l'articolo più dettagliato, il titolo è Il ring di Gastone, scarpe, sangue, simboli neonazi. Una scarpa da tennis insanguinata in mezzo a centinaia di fotografie e stampe di Andrei Tarkovsky, celebre regista e dissidente sovietico, è ciò che rimane del pomeriggio di follia di Daniele De Santis, conosciuto come Gastone, capo ultra della Roma, che sabato si è messo a sparare sui tifosi napoletani diretti verso l'Olimpico. A Tor di Quinto, periferia nord di Roma, qui Gastone gestiva un bar all'interno del centro sportivo Il Trifoglio, e il suo volto è famoso per il derby del 21 marzo 2004, quello che non si è mai giocato. Gastone e gli altri capi ultra della Sud, di concerto con i loro pari laziali, non fanno disputare la partita, disseminando la notizia falsa di un ragazzino ucciso da una camionetta della polizia. Sabato decide per il bis. Forte di una mole da lottatore greco-romano, di una revolver in tasca, esce sulla strada principale in viale Tor di Quinto e si mette a provocare gli ultra lanciandogli contro fumogeni. Quando questi reagiscono, estrae la pistola e spara. Un gruppo lo insegue per farsi giustizia, tra loro c'è anche Mimmo, il cugino di Ciro Esposito, il tifoso che sta lottando per sopravvivere al Gemelli. Per ripercorrere l'inseguimento basta seguire la doppia traccia che Gastone e gli ultra hanno lasciato a terra: sangue lui, bengala e petardi loro. A un certo punto Donatella Baglivo e il marito Ivan, che gestiscono una discoteca poco lontano, il Chuck Village, se lo ritrovano davanti, attorniato da un'orda di tifosi. Allora saranno stati almeno 60, lo stavano linciando, per questo abbiamo provato a soccorrerlo. Apre il cancello, che era stato chiuso coi sigilli della polizia a marzo dopo un pestaggio avvenuto durante la festa. All'interno del locale chiuso c'è anche una signora di 80 anni, ma la furia dei tifosi non si ferma. Raffaella reagisce, minaccia l'arrivo della polizia, riesce a farli scappare. L'abbiamo trascinato dentro, aveva il piede ormai completamente spezzato, sembrava potersi staccare da un momento all'altro. Poi per qualche istante sembra sia finita, ma i tifosi ritornano, sfondano la porta, sempre più numerosi, e tornano a picchiare Gastone. Non si accorgono neanche che a terra, nella foga, vicino a lui c'è la pistola. Insomma, questo è successo sabato, ovviamente una ricostruzione poi parziale in questi momenti di guerriglia e di follia. Sta di fatto che certamente è un qualcosa che ha fatto il giro del mondo e ci ha fatto molto molto onore. Beh, che dire, la politica, veniamo alla politica politicante, c'è da dire che siamo in piena campagna elettorale, quindi ci sono le interviste, le controinterviste. Ha fatto discutere molto l'intervista che Matteo Renzi ha fatto ieri al Corriere, dicendo i sindacati non si devono mettere di traverso. Allora oggi il Corriere fa una ribattuta su questa intervista, il contrattacco dei sindacati al Premier, il fronte di Camusso e Bonanni dopo le parole di Renzi. Susanna Camusso dice solo una battuta: com'era l'hashtag amici gufi? Altro non dice, per noi parlano le cose che facciamo, mentre Raffaele Bonanni è più loquace, dice il governo vuol fare tutto a scavalco delle parti sociali. Ci si mettono anche i prefetti ora, sapete che Renzi vuole diminuire le prefetture, e allora sentite per esempio uno di loro, il prefetto di Lodi, Antonio Corona, intervistato dal Corriere della Sera, da Dino Martirano, dice la sua. E i tagli delle prefetture, partiamo dai numeri, perché tagliare il 60%, non il 70% oppure il 40%? Mi sembra che i numeri vengano dati a casaccio, come in una trattativa a Porta Portese. Così parla il prefetto di Lodi, prefetto Corona. E poi noi abbiamo parlato di pugnalata alla schiena, non abbiamo messo in atto alcuna forma di resistenza, abbiamo solo chiesto un confronto con il governo. Ci chiediamo, tagliare 60-65 prefetture, ma quando, dove, con che logica? E poi la difesa che si pone in Italia quando non si vuole cambiare niente: le prefetture esistono dall'Unità d'Italia, c'erano ben prima che arrivassero gli enti provincia. E vabbè, questo è un gran classico, come dire, non si può toccare nulla. Vabbè, di politica c'è anche Berlusconi che ieri è andato alla Luce Annunziata, era un momento anche questo a suo modo storico, visto che l'ultima volta, 8 anni fa, finì con Berlusconi che se ne andò nel mezzo dell'intervista accusando Lucia Annunziata di essere una giornalista non imparziale, e ha parlato di momento eroico che sto vivendo, non sono depresso ma sono certo un po' in difficoltà. E la trattativa per il Senato, il presidenzialismo, cose di una noia mortale, mamma mia. Va bene, è il dibattito politico italiano, ma intanto fatemi salutare. Fatemi salutare. Mauro Meazza. Buongiorno, come stai? Buongiorno, sono contento che una piccola cosa ti abbia così rinfrancato. Questo penso che tu ti riferisca all'intervista di Berlusconi all'Annunziata. Sì, ha tirato su di morale. Meazza ieri al Meazza. Oppure è stata la lettura del Sole 24 Ore, che come ogni mattina è densa, certo, di spunti importanti. Certo, no? Questo certo. Ti mette di buon umore. Allora, cosa c'è sul Sole 24 Ore? Ci sono molte cose interessanti. Innanzitutto ci sono delle classifiche, e le classifiche bisogna sempre guardarle. Questo chi deve capire capisce. Delle classifiche che ci dicono appunto come si sta muovendo il prelievo nel mondo, che sai che c'è un generale spostamento verso le indirette e una diminuzione invece delle imposte dirette nei confronti delle imprese. Non così ancora visibile in Italia, perché appunto, come vedi dal nostro titolo più importante, il fisco non arretra ancora, insomma c'è il taglio dell'IRAP, diciamo che cade in un quadro ancora molto difficile. E poi gli avvocati che potrebbero entrare con grande importanza nella materia dei divorzi e delle separazioni. Abbiamo fatto un conto, anche una mappa, di quindi un'altra classifica delle cause in Italia, dove anche come tempi, dove ci si mette più tempo, meno tempo per arrivare a conclusione delle separazioni e dei divorzi. Poi una cosa importante, il certificato penale richiesto a chi lavora con i minori, sai che è una novità recente, una pagina dentro nell'inserto nella parte di norme e tributi che risponde a tutta una serie di domande, ad esempio anche la richiesta di questo certificato per chi utilizza dei collaboratori. E poi da domani gli incentivi al via per le auto verdi. Possiamo far vedere la vignetta a questo punto? Facciamo la vignetta, dai. La vignetta. La facciamo vedere su Twitter, così sembra che diciamo la solita spiritosaggine. Stai guardando la classifica? Sto guardando la classifica, sì. Ecco, no, poi ho citato Twitter perché qualcuno mi dice, ma sì, una volta ogni 3 anni può capitare, ma non ho capito a cosa si riferisse. Vabbè. Di calcio non parlare, perché come diciamo che complimenti ai campioni d'Italia. Certo. Come dire, hanno celebrato, anche se hanno dei problemi con l'aritmetica anche loro. Perché poi vedi, appena è partito il campionato ieri, ripreso il campionato, pam, è subito finito. È subito finito, in contrasto a dirsi addio, una cosa così. Sì. Va bene, allora rimandiamo alla vignetta, mi raccomando, 5.000 euro di incentivi da domani per l'acquisto di auto ecologiche. Certo. Tutti i particolari sulle pagine di Risparmio e Famiglia. Ciao, Mauro. Poi domani interloquiamo, dici anche delle parole però, perché così diventa difficile. Vabbè, faccio tutto io perché vedo che oramai sei preda di una hilarità inarrestabile. Va ciao, bene. Mauro. Traffico. Eccoci qua, allora, le 7:48 minuti. Continuiamo a leggere i giornali sulla questione dei sindacati. C'è la vicenda neanche di Landini della FIOM, risponde in qualche modo all'accusa di Renzi, i sindacati non si devono mettere di traverso, in un'intervista a Repubblica, intervistato da Roberto Mania, la CGIL cambierà leader scelti con le primarie e legge di rappresentanza. Sapete che c'è anche una battaglia interna della CGIL tra Camusso e Landini, per l'appunto. Renzi vuol fare la rivoluzione, dice Landini, intervistato da Roberto Mania, pagina 10. Io più di lui, francamente, non vedo cosa ci sia da difendere in un paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa, i salari più bassi e i giovani precari. Se c'è una responsabilità dei sindacati è stata certamente quella di aver ragionato in questi anni con la logica di ridurre il danno. Prima si è sostanzialmente accettata la modifica dell'articolo 18, ora ci si ritrova con la liberalizzazione totale dei contratti a termine. Eppure il presidente Renzi, più che remissivi, vi considera conservatori. Risponde Landini che ci sia la necessità di un cambiamento democratico del sindacato è fuori discussione, c'è un mercato del lavoro totalmente cambiato, ci sono milioni di lavoratori che non hanno rappresentanza, il problema c'è, ma Renzi può fare una cosa per far sì che il sindacato si riformi, presentare una legge sulla rappresentanza e la democrazia sindacali, perché bisogna mettere le lavoratrici e i lavoratori nelle condizioni di rinnovare, cambiare il sindacato. Va bene, questo Landini su Repubblica. A proposito di politica, forse la notizia che prende più spazio sui giornali nuova è la iniziativa, ne abbiamo già parlato un po' alle 6:30, che ha preso Paola Bacchiddu. Chi è Paola Bacchiddu, direte voi? La responsabile comunicazione della lista per Tsipras, che ha detto, visto che da giorni, da mesi, la lista Tsipras non ottiene visibilità sui giornali, ha pensato bene di fotografarsi o mettere su Facebook una sua foto in costume, nella quale è ben in evidenza il lato B. È una bella ragazza, certamente, e dice a commento: è iniziata la campagna elettorale e io uso qualunque mezzo fate per far votare l'altra Europa con Tsipras. Apriti cielo, la polemica, in bikini sul web, qualunque mezzo per far votare la lista Tsipras. La polemica, come scrive Alessandra Longo su Repubblica, pagina 9, proprio da lì, dalla lista Tsipras, quella dove c'è per esempio candidata Barbara Spinelli, quella dove c'è candidata Lorella Zanardo, quella dove ci sono molte donne che fanno parte di, se non ora quando, della battaglia contro l'utilizzo del corpo delle donne in politica, una donna per provocare, per dire vedete non c'è mai spazio che viene dato alla lista Tsipras, e allora sapete che faccio, io mi mostro in costume e così vedrete che si parlerà di me. E l'effetto è proprio questo, si parla della lista Tsipras perché la responsabile della comunicazione ha trovato questo stratagemma. L'avesse fatto una berlusconiana cosa avremmo detto? Qualcuno le ha rinfacciato. Altri invece, sei meglio della Minetti, primi effetti positivi, mi sa che arriviamo al 10%, e parte la discussione sui social. Lei risponde, la mia voleva essere una cosa giocosa e spiritosa, i mezzi di informazione non si interessano a noi, al nostro programma, e dunque nessuno ne parla, ma le giuro non avrei mai pensato a una deriva di queste proporzioni, ho toccato un nervo scoperto, le reazioni della pancia delle donne possono essere molto violente. Così scopre l'acqua calda Paola Bacchiddu. Va bene, altre notizie di cronaca, beh, c'è molto della situazione a Senigallia, soprattutto dopo che un'alluvione ha portato la morte ma anche la distruzione di gran parte della città. Renzi arriva, dice sarà pronto tutto per la stagione turistica. Trovate ovviamente tante notizie di questa vicenda. Come trovate su Repubblica, vi segnalo due pagine sulle infrazioni europee. Sapete quante ce ne sono che pendono sull'Italia? Ben 114. Le procedure di infrazione europea in tutti i campi, dall'ambiente alle appalti, alla giustizia, soprattutto per le discariche irregolari. Siamo nel mirino dell'Europa, come racconta Alberto D'Argenio insieme a Fabio Tonacci. Sono due pagine, a pagina 14 e 15, che vi segnalo perché l'Italia è davvero al disastro. Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire il titolo della Gazzetta. Stregati dalla Juve, ci sono 3 stelle, finalmente hanno 3 stelle, tutti contenti come i bambini. Bravi, bravi quelli della Juve, avete vinto lo scudetto, ma la Coppa UEFA no, avete fatto il biplete, sbattuti fuori da 2 coppe europee nella stessa stagione. E va bene, biplete e triplete, 3 scudetti in 3 anni e biplete in 1 anno. Ma sono al momento della carta costa, l'articolo più inutile sui giornali oggi vince con il Corriere della Sera. Massimo Nava, un'intera pagina per le celebrazioni di un esilio, l'isola d'Elba che festeggia il Napoleone e i 200 anni dallo sbarco di Napoleone. Ma chi se ne frega con le cerimonie in costume, con i discorsi dell'epoca, la consegna delle chiavi del regno, una pagina al regno, siamo una repubblica ormai, Napoleone all'isola d'Elba. E vabbè, amen, la carta costa e andiamo avanti così. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, di che parliamo? Beh, intanto vi preannuncio che alle 8.45 avremo ospite il sindaco di Roma, Ignazio Marino, per parlare anche, ovviamente, di quello che è successo all'Olimpico, fuori l'Olimpico, 2 giorni fa, prima della finale di Coppa Italia, Fiorentina, Napoli. Intanto però vogliamo parlare di quello che succederà da qui al 25 maggio, o meglio il 25 maggio sapete si va a votare per l'Europarlamento, allora 73 europarlamentari saranno votati anche dall'Italia. e vogliamo fare un po' di informazione su quello che sono, per esempio, che fanno i parlamentari e che sono presenti nelle sedute, sono presenti a Strasburgo e Bruxelles quando si vota, e soprattutto quanto guadagnano, perché si è sempre parlato di quella che è la casta dei parlamentari nazionali. Vogliamo parlare di quello che succede in Europa. Quanto guadagnano, per esempio, gli europarlamentari? Ne parliamo con Alessandro Caprettini, che è stato è un giornalista, insomma, adesso fa altro, credo. Lo saluto, buongiorno Alessandro e ben ritrovato. Ha seguito per anni quello che avviene in Europa, ha scritto anche un libro 2 anni fa, si intitolava L'Eurocasta, no, se non sbaglio. Esatto. Qui, insomma, dal titolo è abbastanza evidente di cosa stiamo parlando. Voglio salutare anche Doru Frantescu, che è cofondatore di Vote Watch Europe. Vote Watch è un organismo indipendente nato nel 2009 proprio, come dire, come sentinella dell'attività degli europarlamentari. Voi cercate di capire cosa fanno e quanto sono presenti gli europarlamentari. Buongiorno Doru Frantescu e benvenuto. Buongiorno. Allora, intanto Caprettini, vogliamo partire dallo stipendio. Io ho letto questa cifra, 6.200 euro netti al mese, questa è l'indennità, e poi c'è, credo, 4.300 euro che serve per mantenere i rapporti con i propri elettori nel paese di provenienza. Più o meno è questa la cifra di cui discutiamo? Ah, sì, è più o meno questa, qui però vanno aggiunte alcune altre voci, perché naturalmente ci sono i rimborsi per quello che riguarda le trasferte, le spese di viaggio e il soggiorno sia a Bruxelles sia a Strasburgo, più i costi per quello che riguarda gli assistenti, cosa che è tutelata a questo punto da un sistema che ha affidato ai centri del Parlamento il pagamento e non più ai singoli deputati che le distribuivano amici e familiari in precedenza, ma che lo stesso è una maglia a rete larghe in cui molto spesso passano altre cose. Quindi, come dire, ai costi che tu hai citato, cioè a questi famosi 6.000 e 200 euro e ai restanti 4.300 vanno ad aggiungersi poi altre cifrette. Vabbè, già così siamo a 10.400 euro che si intasca un euro parlamentare, non è poco. Cioè, altre cifrette, voglio dire, quanto può intascarsi alla fine del mese un euro parlamentare? Diciamo che si può arrivare intorno ai 20.000 euro. Ah, raddoppiare addirittura? Più o meno sì, perché poi le spese di viaggio, c'è da dire a riguardo appunto che fino alla due legislature fa ogni parlamentare presentava alle volte semplicemente una lista da sé compilata in cui figuravano ad esempio i viaggi su compagnie in business class o cose del genere, quando invece magari lo stesso parlamentare se ne andava in low cost, in Ryanair, facevano la cresta. Però questo credo non sia più consentito, adesso questo, bisogna presentare il biglietto proprio. Esatto, e i biglietti naturalmente costano, soprattutto perché i low cost con prenotazione annuale cominciano a diventare più complessi da rimediare, così come gli alberghi di Bruxelles o di Strasburgo cominciano a costicchiare, quindi insomma si arrivano anche cifre superiori, peraltro, ripeto, assolutamente giustificate nel caso dei viaggi e dei soggiorni. Sì. Insomma, rimane il fatto che si tratta di cifre importanti. Certo, insomma, questo certamente sì. Mi ha molto colpito, Panorama ha fatto un'inchiesta la scorsa settimana a raccontare che esisterebbe una lista di top secret, per la verità, di 30 europarlamentari, cioè abbiamo detto che l'indennità è per tutti di 6.200 euro, ma esatto, ci sono 30 parlamentari che hanno europarlamentari, che hanno mantenuto invece l'indennità del loro paese d'origine, probabilmente un'indennità superiore. Ora, chi siano di questi molto. Di molto, ma chi sono questi 30 europarlamentari e perché possono godere di questo privilegio? Ma è molto semplice, appunto, come dicevamo poc'anzi, la riforma che ha portato a equiparare i salari, non dimentichiamoci che in precedenza ogni parlamentare era pagato la cifra che con la quale venivano pagati i parlamentari nazionali. appunto la riforma è del 2009, ma qualcuno che era stato eletto in precedenti legislature aveva già avviato tutto un suo percorso comprensivo naturalmente di accumuli pensionistici, sanitari e quant'altro, e quindi in un regime di trasformazione del sistema si era stabilito che chi avesse avuto alle spalle determinate legislature, determinati pagamenti, manteneva potesse... il vecchio sistema. Esatto, e quindi questi 30 parlamentari non sono altri che quelli che erano stati già eletti in precedenza e che per una legislatura hanno mantenuto questo. È solo che il problema è che non si sa chi siano, perché ce ne sono molti di europarlamentari che sono stati eletti prima del 2009, cioè questi possono mantenere, facciamo un esempio, l'indennità in Italia è di 11.700 euro, esatto, più o meno del Parlamento. Se un europarlamentare italiano, puta caso, fosse stato eletto prima del 2009, invece dei 6.200 euro di indennità, lui può mantenere quella italiana da cui proviene, 11.000 e rotti. Esatto. Però perché questa lista non viene resa nota? Perché naturalmente, è stata una scelta personale quella di aderire o meno al nuovo sistema. Qualcuno l'ha fatto, qualcun altro no. E naturalmente, come si tratta? Chi non l'ha fatto, non richiede molta pubblicità, esatto, sul caso. Non la vuole. Però dovrebbe essere la trasparenza, no? La casa di vetro, e quindi dovrebbe, uno non la vuole, dovrebbero farci sapere comunque. Poi non lo fanno, perché tutto sommato poi si ritroverebbero le prese con elettori urlanti contro questa gente, no? Vabbè, comunque insomma mi ha scoperto che 10.400 euro la base, ma per Capretini si può arrivare anche quasi a 20.000. Ora la domanda, e vorrei coinvolgere su questo Doru Frantescu, ci chiedono molti ascoltatori già, ma per quanti giorni si lavora? Ecco, voi monitorate proprio come sono le presenze, quanto si sta in aula, chi è più presente, chi è meno presente, e soprattutto la presenza, che cosa, come si misura, Doru Frantescu? Beh, quello che facciamo noi, tante cose nel Parlamento europeo, tra i quali la presenza degli eurodeputati alle sessioni plenarie, ai voti nella sessione plenaria del Parlamento europeo. In questo momento, visto che l'attuale mandato si è finito, possiamo dire qualche cosa. Per esempio, la delegazione italiana si trova sulla 24esima posizione su 28 paesi membri dell'Unione Europea in quello che riguarda la partecipazione dei eurodeputati. Cioè 24esimi su 28? Cioè se facciamo sì, schifo. Esatto. Facciamo schifo. Questo quello che è certo non è così bene, però guardiamo come si stanno svolto le cose nel mandato precedente 2004-2009. L'Italia si trovava alla fine di quello mandato sull'ultima posizione, sulla posizione. Eravamo 28esimi, abbiamo guadagnato 4. Chi è che fa peggio di noi, Frantescu? Chi è peggio di noi? Il Cipro, la Lituania, la Grecia e la Malta. Cipro, Lituania, Grecia e Malta sono meno presenti di noi con i loro eurodeputati, però noi 24esimi, insomma non ottimo come presenze, come percentuale più o meno di media di presenze? Percentuale 78%. La media italiana di presenze, ecco. Ma la presenza, è vero che si misura, ci sono state tante polemiche, nel senso che sulla presenza si dice c'è un registro da firmare e basta che quando è giorno di sessione si vada a firmare nel corso della giornata, cioè si può arrivare addirittura anche come se fosse a scuola, immaginatevi, mancano 5 minuti allo scadere della lezione a scuola o della sessione, uno arriva in fretta e furia, quindi in tardo pomeriggio firma la propria presenza e risulta presente. È davvero così, Frantescu? È davvero così, e per questo noi abbiamo smesso di fare quel tipo di monitorizzazione. Adesso guardiamo solo la media di partecipazione ai voti, quindi non guardiamo più le signature nel registro di partecipazione, ma la partecipazione ai voti. Ecco, questo è interessante, cioè quindi voi non riconoscete quel metodo, proprio perché è un metodo che rischia di essere aggirato, e quindi il vostro metodo invece è, cioè controllate chi è in aula, proprio state lì a vedere chi è presente durante il voto? Sì, abbiamo la possibilità di monitorare come ognuno dei deputati ha votato su tutti i voti, quindi questa presenza che ho detto, 78%, è una presenza ai voti. Ai voti. Sì, però sì, cioè, sì, il lavoro, non so, vorrei capire, Caprettini, ma sì, cioè, bisogna essere presenti solo quando si vota, ci saranno anche le discussioni senza voto, cioè, facci capire un po' com'è la tipologia del lavoro nell'Europarlamento. Ma naturalmente diciamo che copia quello che è l'andamento delle cose nei parlamenti nazionali, ci sono delle commissioni e c'è l'aula. Per quello che riguarda la presenza, tranne rare eccezioni, diciamo che è computata soprattutto sulla presenza in aula, cioè i deputati quando entrano in aula, prima di entrare in aula, soprattutto a Strasburgo, hanno un registro ai due lati degli ingressi, diciamo, da cui entrano in aula e si mettono a firmare, oppure magari uscendo, ma di solito lo fanno. Però ci diceva Frantescu che appunto questo non è il metodo che usa VoteWatch per verificare. No, perché loro lo faranno con in relazione probabilmente ai voti elettronici che spendono e che vengono riportati. È perché il registro, se no, si presta questi ad essere aggirato con la metodologia che ho detto prima. Esattamente. Però diciamo che ci sono anche le presenze in commissione che sono, a mio modo di vedere, molto molto più importanti di quelle che possono essere i voti in aula, perché là nelle commissioni che si decide quel poco che si può decidere, ma che è importante perché si tratta di quattrini da erogare agli stati nazionali e a tante altre attività che svolge il Parlamento nazionale. Ecco, in questo caso diciamo che purtroppo le presenze non sono conteggiate, anche perché non si tratta di votare, si tratta di discutere, di fare emendamenti. Cioè, tenete presente una cosa. Ma non c'è un sistema per capire se uno sta in commissione o no. No, è molto difficile, bisogna stare lì presenti. Tenete presente una cosa, il Parlamento europeo, se mai avrete occasione di andare a verificare, si può, perché sono ammesse appunto persone esterne, pubblico, diciamo, non tanto non solo in aula, ma anche per visite guidate che si fanno spessissimo a Strasburgo e Bruxelles. Il Parlamento europeo è una cosa molto molto molto tecnica. Se un provvedimento arriva in aula, voi non sentirete dire che pochissime parole, si farà riferimento soprattutto a numeri, a codicilli, ad un linguaggio estremamente tecnico, sì, incomprensibile, che è impossibile da capire per una persona estranea, perché tutto il lavoro viene fatto in commissione. Certo. Dove appunto vengono trasformate quelle che sono delle iniziative legislative in appunto numeri, codicilli. Sì, da qui si dice, molti dicono, il Parlamento europeo non serve. Sì, esatto. Anche, non serve, ecco, in realtà serve moltissimo, perché poi lì sono fior di quattrini che vanno a finire in questo o in quell'altro posto. No, io ricordo due o tre di quelle occasioni abbastanza strane. Mi recai ad un vertice di ministri dell'agricoltura che si svolgeva in un assurdo paesino greco al confine con l'Albania, e quando provai a domandare, dico, ma perché hanno fatto questo incontro, era, voi mi direte che sei andato a fare, era il 2004 ed era la prima volta che nel governo italiano era entrata l'allora AN, sì, e cioè un partito che aveva una derivazione dal PNF. Certo, insomma, certo. Ed era la prima volta appunto che un ministro del PNF, ex PNF, diciamo così, cioè Adriana Poglia Bortone, ministro dell'agricoltura, andava in Grecia. Mm-hmm. E quindi era forte la curiosità di vedere come i greci avrebbero accolto appunto. Cioè, il vecchio partito fascista, anche se poi con una lunga storia. Esatto, cioè. E come. E allora venni a scoprire che la scelta di quel paesino era capitata lì perché tra le pieghe del bilancio del Ministero dell'Agricoltura comunitario avanzava sempre qualcosa, e quindi mi spiegarono i greci che li avevano portati in quel posto perché magari se fossero avanzati 100-200 mila euro si sarebbero ricordati della tremenda vicissitudine di quel paese e l'avrebbero concessi. Vabbè, ma fantastica questa, ecco, cioè, fantastica, però la cosa tanto poi finì, perché ricordo finì in un atto parlamentare dove era solamente pieno di numeri e di cifre. No, chiaro. Io vorrei sapere, Doro Frantescu, prima della pubblicità, quali sono invece i primi tre paesi, cioè quelli più virtuosi in presenza, chi sono? I primi tre sono l'Austria, la Slovacchia e il Lussemburgo. Austria, Slovacchia e Lussemburgo. Vabbè, Lussemburgo sono anche un po' più vicini di noi, sono più abituati a vivere, soprattutto a Lussemburgo. Va bene, Austria, Slovacchia e Lussemburgo sono i più virtuosi. Allora andiamo in pubblicità, riprendiamo tra qualche minuto. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:39 minuti, stiamo parlando con Alessandro Caprettini, che un paio d'anni fa ha scritto il libro L'Eurocasta Italiana, insomma, assenteisti, inefficienti, trasformisti, inaffidabili, ma eppure i più pagati di tutti, gli europarlamentari italiani. E stiamo parlando anche con Doru Frantescu di Vote Watch Europe, che è un organismo indipendente per controllare le presenze e chi è più presente in Europarlamento. Allora, tra l'altro ci ha detto 78%, Frantescu, ma qualcuno ci scrive, ma non è bassissima come presenza? È vero, siamo noi italiani 24esimi su 28, ma la media di presenza quant'è, la media generale? Direi che la media generale è un po' più, certo, alta, che la media delle delegazioni italiane è intorno a 84%, la media del Parlamento Europeo. Vabbè, noi siamo al 78%, comunque. Tra l'altro c'è un'altra questione, voi avete controllato anche le presenze in base agli interventi in aula, ma è vero che da quando avete introdotto questo livello di controllo sono aumentati gli interventi scritti invece che gli interventi prendendo la parola, orali, perché uno lo scritto lo può, come dire, fa un intervento scritto, lo può depositare e poi se ne va, è così? Sì, certo, gli interventi scritti sono piuttosto il lavoro degli assistenti, perché certo non deve essere l'eurodeputato quello che scrive, questo lo può fare l'assistente, e quindi è più facile per gli europarlamentari di fare questi interventi scritti, che non sono così importanti. E cioè, sì, ma lo deve almeno leggere in aula o no? Non lo deposita, e in quel caso risulta presente per voi? No, perché quella è un'altra categoria, non guardiamo questi per vedere se sono presenti o no. Però è interessante, cioè da quando comunque controllate anche questo tipo di interventi, sono aumentati gli interventi scritti invece che quelli orali. Vabbè, tra l'altro, Caprettini, c'è anche da dire che quando un eurodeputato finisce la propria carriera, mi ha colpito questo, intanto si vota il 25 maggio, ma quelli che non verranno rieletti prenderanno gli stipendi anche di maggio, giugno e luglio. Non ho capito, forse perché c'è il ricambio. Diciamo che era una specie di salvaguardia che è stata introdotta, perché naturalmente uno eletto al Parlamento Europeo magari prima aveva una professione, un'attività di qualche tipo, un lavoratore dipendente o quant'altro, e allora gli si dava un margine di tempo per cercare di riottenere un lavoro o qualcos'altro. Il principio, come dire, in linea di massima era anche giusto, no? Sì. Nel senso che se un operaio eletto per un partito andava a finire a Strasburgo e Bruxelles, e poi nel momento della non rielezione avrebbe avuto, anche gli deputati italiani hanno così l'assegno di reinserimento, no? Si chiama così. Esatto. Però poi c'è anche, attenzione, non è finita, per chi torna a casa, leggevo sempre la Panorama, dal 1 agosto al 31 gennaio 2015 scatta l'indennità transitoria, ovvero 6.206 euro al mese per 6 mesi. Quindi sono altri 36.000, cos'è un TFR? Cos'è un... Sì, una sorta di liquidazione, anche qui appunto per salvaguardare il reinserimento in qualche modo, un paracadute, no? che però appunto è diventato molto costoso col tempo. Ma insomma, per concludere, cosa possiamo dire? Perché non dobbiamo buttare tutto, no, in vacca, dire che è un grande spreco, un enorme spreco, certo si potrebbe parlare, abbiamo fatto delle due sedi parlamentari, Strasburgo e Bruxelles, e devono spostare i documenti. È tutto un grande spreco oppure no, Alessandro? Ma diciamo che non tutto è uno spreco, non bisogna generalizzare come al solito, però in effetti diciamo che l'incidenza sul bilancio comunitario è molto alta, è molto pesante, perché voglio dire, si parla di 1 miliardo, io parlo di eurodeputati nel loro complesso, si parla di 1 miliardo e 700, cioè su un bilancio di 1.700 miliardi di euro, il 37% è destinato alle spese per il personale e il 24% va a coprire le spese degli eurodeputati. Cioè, voglio dire, è una cifra molto pesante rispetto a quella che il 24% vuol dire un quarto dell'intero bilancio dell'Europarlamento. Sì. Ah, no, è molto pesante anche rispetto, diciamo, a quello che è il bilancio in sé di tutta quanta l'Unione Europea, no? Comunque, certo, è il nostro Europarlamento. Il 25 si vota. Io, se volete informarvi di più, Alessandro Capertini, leggete l'Eurocast italiana, oppure andate anche sul sito di Vote Watch Europe e ringrazio anche Doru Frantescu ovviamente per essere stato con noi. Dopo le informazioni sul traffico avremo il sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino, che è già ai nostri microfoni, lo saluto, buongiorno sindaco. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, allora, buona settimana. Grazie a lei, tra un attimo abbia pazienza un minuto e sono subito da lei. Roma ha approvato il bilancio, ma ovviamente c'è anche è successo il putiferio, insomma, prima della partita di calcio due giorni fa, parleremo di questo tra poco. Eccoci allora alle 8:47 minuti, con noi c'è il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Sindaco, prima di parlare del bilancio che è stato approvato nei giorni scorsi, è molto importante, vorrei farle qualche domanda, però ci sono stati questi eventi extra calcistici, si può dire, all'Olimpico. Senta, non spetta certo a lei, perché il prefetto Pecoraro ha detto avrei giocato anche con il morto oggi in un'intervista a Repubblica, ma lei concepisce che sia giocata una partita di calcio in queste condizioni? Certamente c'è da fare una valutazione di qual è il male minore, non di qual è la soluzione migliore. Io mi sono chiesto negli stessi minuti in cui ero in contatto con il questore che si trovava allo stadio, quale fosse la scelta migliore da fare. Evidentemente lasciare delle tifoserie che abbiamo visto difficili da governare e da guidare, libere per la città, c'era il rischio che la città ne avesse delle conseguenze molto negative, e quindi la valutazione fatta dal prefetto di Roma è stata quella di far giocare la partita. Certo, lascia con sentimenti contrastanti questo tipo di decisione, nel senso che punizione rispetto a comportamenti di violenza, anche se extra stadio, è il sentimento che prevale nel mio animo. Sì. Quando ho ascoltato le parole del ministro Alfano di allontanare a vita dagli stadi coloro che hanno comportamenti violenti, io sinceramente mi sono trovato d'accordo. Credo. Che il calcio, che è uno degli sport principali, e per me come amministratore lo sport è un inno alla qualità della vita, al benessere, tutto questo non può essere persone che hanno la testa vuota, diciamolo, sì, trasformato in violenza, ma è chiaro, dolore, rischio di avere addirittura dei lutti, dei morti, e non sappiamo ancora cosa accadrà nel futuro della sua vita a questa persona colpita certo. Dai perché ricordiamo il rischio di rimanere anche paralizzato. Comunque lei è per il DASPO a vita, cioè sarebbe d'accordo se il governo facesse questa legge. Le chiedo anche questo, si ricorda che Monti quando era premier disse addirittura bisognerebbe fermare il calcio per un anno, ecco, un provvedimento di questo genere? Ma questo punirebbe anche coloro che invece nel calcio trovano un momento di gioia, un momento di serenità, portano i propri bambini allo stadio, li tirano su con una passione. E quanto sono importanti le passioni positive nella società di oggi? Quanto è brutto il fatto che l'Italia spesso si chiuda in un pessimismo e in un'assenza di entusiasmo. Passione, entusiasmo, gioia nello sport, sono tutti sentimenti positivi. Quello che va allontanato è il negativo. Sì, certo. C'è chi vuole portare in questi luoghi violenza, chi vuole portare disastri, chi vuole portare disordine, chi vuole creare situazioni pericolose addirittura per la vita degli altri. Sindaco, è stato approvato il bilancio, io leggo due cifre, 117 milioni complessivi di taglio della spesa, risparmio di 40 milioni sul personale. Ecco, ma per esempio si taglia, vedo in mobilità 15 milioni e 9, in politiche abitative 13 milioni e 7, in cultura 11 e 9. Questi tagli, come fa a garantire che sono ai disservizi e non rischiano invece di tagliare i servizi? Ma io nella professione, lo sa, sono un chirurgo e quindi invece di aver fatto tagli lineari, no, come la rasatura dell'erba di un prato, ho fatto tagli chirurgici. Innanzitutto è la prima volta a memoria nelle ultime decine di anni che Roma inverte la rotta. Invece di aumentare la spesa pubblica corrente la taglia di 117 milioni. E come lo fa? Lo fa tenendo conto dei più deboli, per cui in questa manovra io ho voluto che 530.000 romane e romani, cioè quelli con i redditi più bassi, ma 530.000 sono più di mezzo milione di persone, non pagheranno l'IRPEF. L'IRPEF comunale per 530.000 romani è azzerata. In più ho voluto che coloro che ad esempio hanno una casa che appartiene ai genitori e ci vivono perché magari non hanno risorse proprie per comprarsela, bene, quella non verrà con questa manovra considerata una seconda casa, ma nonostante che in effetti sia seconda, ma se in uso ai propri figli viene considerata come prima casa, quindi con un'aliquota molto più bassa. Mentre invece abbiamo voluto cercare risorse economiche là dove ci sono. Chi arriva a Roma e prende una stanza in un albergo a 5 stelle lusso e paga 700 euro, pagherà invece di 3 euro di tassa di soggiorno, ne pagherà 7. Però gli albergatori sono molto arrabbiati. Chi andava in albergo di lusso a 5 stelle pagando per una notte quanto costa l'affitto normale di una casa per un mese, pagava solo 1 euro in più, cioè 3 euro, rispetto ai 2 euro di chi invece si doveva accomodare in una pensione vicino alla stazione con il bagno nel corridoio in comune con altri ospiti. Però, sindaco, gli albergatori... Insomma, questo è davvero una differenza di un solo euro tra l'albergo a una stella e quello a 5 stelle mi sembrava irragionevole. Però, nello stesso tempo abbiamo aumentato drasticamente la tassazione sui cosiddetti camion bar, quelli che vendono panini, bibite vicino ai nostri grandi monumenti. Sì, sindaco, dai quali, però mi scusi, sindaco. Per una questione sindaco. Ma comunque pensi che pagavano solo 3 euro al giorno con un incasso medio di 1000 euro al sindaco, giorno. Però, io l'ho portato a 30 euro al giorno. Però costruiremo 1072 nuovi alloggi popolari. Sindaco, però mi scusi, la fermo, ma perché non mi sente? In 10 anni ne sono stati costruiti solo 1800, nella manovra 2014 abbiamo le risorse per costruirne 1072. Sindaco, mi perdoni, insomma, sindaco Marino, io non so che vogliamo dimostrare che dobbiamo fare, cioè non è un'intervista, cambiare è uno rotta, spot. No agli sprechi, ma equità sociale e anche nuovi investimenti. Sindaco, mi perdoni, però lei sente le mie domande se tento di interloquire, perché altrimenti non riusciamo. Abbiamo due minuti solamente. Io no, volevo non farle... le ho sentite. Volevo infatti farle qualche domanda, ma non riuscivo a interloquire. Gli albergatori si sono arrabbiati per questo. E poi le chiedo anche, a questo punto credo per concludere, perché sono aumentati 10 volte di più i permessi per entrare nella ZTL, la zona traffico limitato. La seconda domanda è molto facile. Noi abbiamo una politica di natura ambientale, abbiamo introdotto un mese e mezzo fa il car sharing, cioè un sistema attraverso il quale i cittadini possono muoversi con automobili che affittano per mezz'ora, 40 minuti, un'ora o anche un giorno, e abbiamo avuto il più alto numero di adesione. I siti di alcuni quotidiani nazionali fanno vedere che abbiamo raggiunto in un mese i 35.000 associati, cioè vogliamo che le persone persone si muovano con automobili non di proprietà per diminuire la pressione del traffico nel centro della città. Per quanto riguarda gli albergatori, cosa vuole che le dica? Se si ritiene ingiusto che chi può permettersi una stanza da 800 euro paghi qualche euro, 7 euro di tassa di soggiorno, e mentre prima la differenza tra chi pagava 40 euro per una stanza in un albergo a una stella e qui pagava, e chi invece prendeva una stanza in un albergo a 5 stelle era solo di un euro, insomma chi aveva l'affitto di una stanza a una sola stella pagava 2 euro a 5 stelle 3 euro. Quindi, non è così in nessuna città europea, una differenza di un euro mi sembrava davvero una soluzione equa, una soluzione di equità. Va bene, la ringrazio.